Ora girati un'altra persona e di e tu sei straordinario. Se abbiamo un Dio maestoso, noi non possiamo che essere un popolo altrettanto straordinario come il nostro Dio. È vero? Ci possiamo accomodare? Io ringrazio la band per questo momento di adorazione. Grazie ragazzi. È meraviglioso poter vivere questo nuovo anno, questo 2000. Ormai siamo al primo febbraio, possiamo ancora considerarlo un nuovo anno? Beh, siamo un po', no? Fino a San Valentino vale. Dopo San Valentino siamo entrati ufficialmente. Però è meraviglioso poter esprimere in questo nuovo anno il nostro desiderio di correre la nostra corsa nella direzione, verso quella direzione che Dio ha preparato per noi. È straordinario poterci fermare, svegliarci la mattina e dire: io voglio correre la mia corsa in questo nuovo anno verso la tua direzione, Signore. È qualcosa di prezioso, è qualcosa di eterno, perché questo ci permette di scrivere, di raccontare e di vivere con la storia della nostra vita qualcosa di più grande di noi. Ci permette di scrivere, di vivere, di raccontare tutte le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le praticassimo. Questo significa questa dichiarazione per noi. E sapete, da Ruth abbiamo imparato una confessione che io ho fatto tesoro per me e che io voglio incoraggiare noi quest'oggi a fare tesoro per noi. E a un certo punto, al verso 16 del capitolo 1, lei, tra le tante cose che dichiara, dice a Noemi: io voglio che il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Da sempre, sapete, da sempre Dio vuole un popolo. Da sempre Dio sceglie un popolo. Da sempre Dio chiama un popolo. Perché nell'appartenere al popolo di Dio, Dio stesso può direzionarci. Quando noi apparteniamo al suo popolo, lui è reso, noi diamo a lui l'abilità, la capacità, la potenza di poterci direzionare verso la sua direzione. Quando facciamo di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo il nostro Dio, in automatico noi diciamo alla Chiesa e al popolo suo che è il nostro popolo, che è la nostra identità, che è chi noi siamo. E sapete, per Ruth questo era chiaro. Ruth lo aveva compreso, che dopo essersi compromessa al verso 16 dicendo: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio, sapeva Ruth che se avesse fatto di Dio il suo Dio non sarebbe più ritornata a Moab, non sarebbe potuta ritornare a Moab in mezzo ai moabiti a fare la moabita. Se aveva deciso che Dio era il suo Dio, lei doveva necessariamente essere e far parte del popolo di Dio che sarebbe diventato il suo popolo. Necessariamente, quando lei ha deciso che Dio sarebbe diventato il Dio che decideva per la sua vita, ha scelto Yahweh come suo Dio, in automatico Israele sarebbe diventato il suo popolo. Era una scelta abbinata, era qualcosa che non poteva essere esclusa dall'altra. E sapete perché? Perché è il popolo di Dio. Per Ruth sarebbe stato il mezzo attraverso il quale Dio avrebbe guidato la sua vita. Questo è quello che è accaduto, questo è quello che abbiamo letto. La Chiesa è il mezzo attraverso il quale Dio guida e direziona la nostra vita. Appartenere al popolo di Dio ha dato la garanzia a Ruth di poter usufruire della legge della mietitura. E quindi nell'usufruire del diritto del popolo di Dio di poter mietere, Boaz l'ha vista. E nell'essere stata vista da Boaz ha potuto usufruire del diritto del popolo di Israele di avere un riscatto, di non essere più una vedova, di cambiare il codice della sua carta d'identità da vedova a moglie, a coniugata. Non solo, ma Dio ha fatto qualcosa di straordinario attraverso di lei. Appartenere alla Chiesa è ciò che dà garanzia a te di poter essere direzionato verso quella direzione che Dio ha per te, di poter vivere tutte quelle opere buone che Dio ha precedentemente preparate per te affinché tu le potessi praticare e le potessi vivere attraverso della Chiesa. La direzione che viene da Dio prevede sempre un popolo. Sapete, non è qualcosa che solo Noemi, solo Ruth evidenzia nel suo libro. Oggi ho reintrodotto la lavagna. Quanti sono felici della lavagna? Ah, pensavo di più. Va bene. Ve la farò piacere oggi. Però il popolo di Dio è un concetto, è un aspetto, è una verità che da eternità passate a eternità future è parte di quello che Dio ha preparato per noi. E sapete, la direzione che viene da Dio, la direzione verso la tua direzione che Dio ci dà, prevede sempre un popolo, ovvero Dio vuole una socialità di una comunità di persone che hanno lingua, tradizioni e cultura in comune. E non è un caso che la nostra Chiesa abbia un motto, che inizia come? Un popolo di veri adoratori. Un popolo di veri adoratori. È dal 1990 che ce lo diciamo. Non ce lo stiamo dicendo quest'anno per la prima volta. Siamo un popolo di veri adoratori che si impegnano ad ubbidire al grande comandamento, che vogliono servire, si impegnano ad ubbidire al grande mandato, perché sappiamo che sono le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi per far crescere la Chiesa, per portare persone a salvezza, per portare i nostri vicini, la nostra famiglia, i nostri amici a incontrare Gesù e ad essere salvati per la gloria di Dio, per la sua gloria. Quindi partiamo, ci siete? Allacciamo le cinture in questo viaggio, lo vedete tutti? Ora abbiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Già da qua ce ne dobbiamo andare, sono tre e sono uno. Già da qui, nella loro relazione, nella loro socialità, nel loro essere una comunità di tre che sono uno, in una relazione perfetta, Dio già nella sua identità, nella sua essenza, ha scartato l'isolamento, ha scartato l'individualismo, ha scartato l'egoismo, perché loro, Lui è un Dio trino, è un Dio che è uno, è un Dio che è tre. E quindi Dio nella sua essenza, nella sua socialità, che fa? Direziona un popolo dall'inizio. E come direziona questo popolo? Nella creazione. Già dall'inizio, già dalla creazione, noi leggiamo in Genesi 1 al verso 26, Dio disse, ascoltate qui, facciamo l'uomo a nostra immagine. Era un plurale. Dio ci ha creato a nostra immagine. Facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. E poi continua e dice, Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E poi verso 28, Dio li benedisse. E Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, popolate la terra. C'era una chiamata che Dio aveva dato a noi sin dall'inizio di creare un popolo, di popolare la terra, di non rimanere solo Adamo ed Eva, ma di creare una popolazione che l'avrebbe potuto adorare, che avrebbe potuto riconoscere che lui era il creatore. Non è andata proprio così, perché noi abbiamo detto, vabbè, è bugia che ci ha creato a nostra immagine, è bugia che ci ha creato conforme alla nostra somiglianza, mo ci mangiamo la mela. È vero? La mela si sono mangiati? Hanno scelto di vivere senza fidarsi di Dio, senza fidarsi che Lui aveva detto non vi preoccupate di ciò che è bene e ciò che è male, fidatevi di me, sono io chi vi devo guidare, sono io chi vi devo direzionare. E invece no, noi lo sappiamo meglio. E quindi ci siamo mangiati la mela dell'albero della conoscenza del bene e del male. E l'abbiamo saputa gestire questa conoscenza del bene e del male? Guardiamoci intorno. Siamo in grado noi davvero di conoscere ciò che è bene e ciò che è male? E viverlo? No. E sapete cosa ha fatto Dio? Perché non si arrende? Perché Dio ci dà sempre una possibilità nel direzionare il suo popolo, nel direzionare l'intera umanità che ormai era perduta, ha chiamato Abramo. Ha chiamato Abramo. E che cosa ha detto ad Abramo? Genesi 12, verso 2 e 3. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio chiama Abramo perché sa che dall'intera umanità lui si doveva creare un popolo. Lui aveva quell'obiettivo e che cosa fa? Tramite Abramo nasce e crea il popolo di Israele. Ci siete? E il popolo di Israele viene creato da Dio perché doveva essere la testimonianza di che cosa significa che noi siamo le sue creature, che noi ci apparteniamo e apparteniamo a Lui. E nel creare il popolo di Israele, siccome non è che avevano capito bene bene come doveva andare il fatto, per direzionare il popolo, Dio che fa? Manda a Mosè la legge. Vi ricordate? Ora, la legge non è fatta solo dei 10 comandamenti, la legge è fatta di tantissime prescrizioni e leggi molto specifiche e molto particolari che servivano a mettere dei confini intorno al popolo di Israele affinché il popolo potesse dire davanti a tutti gli altri popoli: ehi, c'è Dio, è Lui che ci ha creati. Non sono questi dei che andate voi adorando, non è questo Dio sole, questo Dio luna e queste chiacchiere vane. Dio ci ha creati, Lui è il creatore dell'universo. Guardate noi come viviamo, guardate noi tutto quello che facciamo, guardate noi come siamo benedetti, perché rimaniamo nei confini della legge che Dio ci ha dato. Sapete, gli studiosi del Vecchio Testamento dicono questo, la legge che non è, dicono questo, che la legge non era un sistema chiuso ed esclusivo, come tante volte magari noi ignorantemente possiamo pensare, ma la legge che Dio dà al popolo includeva disposizioni molto specifiche che estendevano diritti e tutele anche a chi non era ebreo di nascita, cioè agli schiavi e agli stranieri. Vi ricorda qualcosa questo? Ruth era una moabita, non apparteneva al popolo di Israele, non faceva parte di questa comunità di persone che socialmente vivevano secondo delle regole. Eppure la legge che Dio dà prevede di includere stranieri e schiavi che sono nel popolo di Israele. E lo leggiamo in Esodo 12, al verso 49. Vi sarà una stessa legge, dice l'Eterno, dopo aver dato tante prescrizioni per il nativo e per il forestiero che soggiorna in mezzo a voi. Se tu soggiornavi nel popolo di Israele come Ruth aveva fatto sposando un figlio di Naomi, lei poteva usufruire del diritto, nonostante era straniera, di quei confini, di quelle leggi che l'avrebbero benedetta. E sapete, questo è qualcosa di rivoluzionario per quel tempo, perché questa inclusione dava la possibilità e introduceva un concetto di dignità umana e di valore della persona che non era legato alla nascita, non era legato al sangue che scorreva nelle tue vene, non era legato all'estrazione sociale alla quale appartenevi, ma era legato al vivere sotto l'alleanza di Dio. Se tu vivevi nell'alleanza di Dio, tu facevi parte. Non ha importanza da dove arrivavi, non ha importanza cosa era stato, era l'alleanza di Dio che ti dava una garanzia, ti dava una tutela, ti dava una benedizione, ti dava una vita. E Ruth era straniera. Questo essere straniera non ha avuto alcuna influenza in quello che è stato il percorso che le ha fatto, perché le ha avuto non solo la possibilità di integrarsi, non solo lei si è integrata, è diventata la moglie di uno dei figli di Naomi, quindi è stata parte degli usi e dei costumi che gli ebrei avevano nonostante lei fosse una moabita, ma è diventata un pilastro della storia di Israele. È diventata lei che non era ebrea, ma era una moabita ed era storicamente nemica al popolo di Israele, perché non potevano neanche relazionarsi a loro, ha rotto ogni schema ed è entrata nella genealogia che ci ha portato ad avere Cristo Gesù con noi. Questa è quello che Dio fa. E quindi tramite Noemi, scusatemi, tramite Ruth arriva Davide. Lei diventa la bisnonna di Davide. E dopo Davide che cosa succede? Che Dio Padre, Figlio e Spirito Santo dicono ok, il tempo è giusto e tramite la genealogia di Davide per direzionare il nostro popolo, il popolo di Dio, noi mandiamo Gesù. E Gesù è sceso e quando Gesù è sceso ha fatto qualcosa di molto importante. Matteo 5,17 ha detto questo: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Quando Gesù è arrivato, lui ha completato l'inclusione che la legge aveva messo come piccola postilla, includendo tutti quanti noi. E sapete da dove ha iniziato Gesù a fare quest'opera di inclusione? Quando si è scelto i suoi discepoli. Non è rimasto da solo a fare tutte le buone opere bellissime che Dio aveva preparato attraverso di lui. No! Ha rallentato il suo cammino e ha scelto noi. Ha scelto 12 poveri a loro, che erano persi e disperati, come lo siamo noi tante volte. E ha fatto squadra, ha fatto di questi 12 un piccolo popolo che potesse portare la sua parola ovunque. E sapete cosa è successo? Che poi il figlio è ritornato alla destra del padre e ha detto a un certo punto che cosa dobbiamo fare, di cosa hanno bisogno loro. E per direzionare il suo popolo ha detto è meglio che io mandi loro lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è sceso. Ci siete? Vi vedo proprio attenti. Lo Spirito Santo è sceso. E cosa ha fatto lo Spirito Santo? Lo leggiamo. Romani 8, verso 16 e 17. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Tutta l'umanità è stata inglobata tramite lo Spirito Santo in quella che poi sarà la Chiesa che Dio ha formato tramite gli apostoli e i discepoli attraverso l'opera dello Spirito Santo. E siamo figli ed eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, anche con Lui saremo glorificati. E questo ci porta a ricreare quello che Dio aveva creato qui. C'era una legge che Lui aveva dato, che non era perfetta, ma era inclusiva, che ha portato noi oggi, attraverso lo Spirito Santo, ad essere inglobati in quella comunità, in quella socialità, in quella famiglia, in quella vittoria che Dio ha preso. E sapete cosa dice l'apostolo Pietro, scrivendo a tutte le chiese, al capitolo 2 dice questo: ma voi siete una stirpe eletta, voi siete un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Ascoltate il verso 10. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Noi siamo il popolo di Dio. La Chiesa non è altro che il popolo di Dio, che da sempre lui aveva in mente di voler creare, di voler vedere, di voler direzionare, di voler guidare, di voler vivere e di voler sperimentare. E non solo siamo un popolo, ma siamo insieme nel correre noi verso la direzione che Dio ci mostra, siamo la sua sposa. Insieme siamo la sposa. È il nostro appartenerci che ci fa essere sposa. E siamo la sua sposa. E sapete, la sposa aspetta lo sposo, compiendo ogni opera buona che Dio ha preparato per noi. E questo essere sposa ci porta e ci porterà insieme ad incontrare, alla fine, per l'eternità, il nostro sposo, che ci porterà con lui per sempre, nella sua relazione, nel vivere con lui, e nell'eternità lui ricreerà di più di quello che lui aveva pensato all'inizio della storia, creandoci a nostra immagine e secondo la nostra somiglianza. Non è straordinario tutto questo? Verso la tua direzione ha a che fare con un popolo, ha a che fare con noi, ha a che fare con te insieme con me, con la nostra socialità, con il nostro essere una comunità di persone. Noi siamo portatori di un linguaggio che costruisce, di un linguaggio che edifica, di un linguaggio che è consacrato, perché siamo una stirpe eletta. Con la nostra socialità insieme noi siamo portatori di tradizioni sante, di tradizioni che parlano della verità che Cristo ha messo nel nostro cuore. Nel nostro socializzare insieme e vivere nella nostra comunità, noi siamo portatori di una cultura del regno dei cieli, che è grandiosa, che è sovversiva, che inverte le regole del gioco e spezza il gioco anche, che ci rende upside down. E nel suo direzionare noi insieme, lo Spirito Santo vuole fare delle cose attraverso di noi, attraverso noi che siamo un popolo di veri adoratori, che ci impegniamo ad ubbidire al grande comandamento di amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente, e amare il prossimo come amiamo noi stessi. E ci impegniamo ad andare e fare discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo ci farà crescere, non solo a noi personalmente, ma ci farà crescere nel raggiungere chi non ha ancora incontrato Gesù. Questa è la verità, questo è quello che noi siamo. Quindi ci voglio dare 4 punti. Li volete? 4 punti. Su come nell'essere parte di questo popolo di cui noi siamo parte, Dio ci benedice. Punto numero 1, nel suo direzionare noi insieme, lo Spirito Santo guarisce la nostra anima. Sapete, ho perfettamente chiaro nella mia mente il ricordo di quando per la prima volta con gli Upside Down, con i ragazzi degli Upside Down, abbiamo fatto un ritiro e l'allora Mirko, non ancora pastore, mi chiese di portare una riflessione, un insegnamento. E nel prepararmi per parlare di questo argomento, lo Spirito Santo disse al mio cuore: io voglio che tu racconti tutta la storia della tua vita, tutto quello che non hai mai detto, tutto quello che hai detto solo a me e per il quale io comunque ti ho amato. E quindi io ricordo ancora quel giorno l'agitazione che avevo nel raccontare tutto di me, nel mostrare tutto quello che era stata la mia vita prima di incontrare Gesù, nel raccontare i miei peccati, le cose che mi avevano fatto male, che mi avevano ferito e che io giudicavo verso me stesso, contro me stesso. E quando io, ricordo perfettamente, ho raccontato tutta la mia storia con la paura che forse non mi avrebbero più ascoltato, che forse non avrebbero più creduto in me, che forse se ne sarebbero andati e non avrebbero più stimato la mia persona, io ho ricevuto amore, accoglienza, abbraccio, stima di più di quella che io avevo prima di quando non avevo raccontato tutto quello che avevo raccontato. E questo ha guarito la mia anima. Perché sì, Dio mi amava, c'era voluto molto tempo per capirlo, che comunque mi amava, al di là di tutto, ma che gli altri mi amassero. Per quello che io ero stato, era qualcosa di straordinario, era qualcosa di miracoloso, era qualcosa che ha guarito il mio cuore e che ancora, quando ci penso, guarisce la mia anima. E la mia anima era leggera, perché io mi guardavo nei loro occhi e mi guardo ancora oggi nei loro occhi e vedo quello che Gesù vede di me, perché loro lo hanno saputo vedere. Questo è il popolo di Dio, questa è la Chiesa, questo siamo noi. E questo è stato per Ruth. Perché Ruth ha fatto del popolo di Noemi il suo popolo? Perché al verso 13, guardate cosa accade, di Ruth capitolo 2. Lei parla a Boaz, che l'aveva vista nei campi, l'abbiamo letto con il pastore nelle scorse domeniche, e a un certo punto lei dice: possa io trovare grazia ai tuoi occhi, o mio Signore, perché tu mi hai consolato e mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure una delle tue serve. Nel suo essere integrata nel popolo, qualcuno l'ha vista e guardandola le ha detto delle cose che l'hanno consolata, che hanno guarito la sua anima dal dolore che lei aveva, dal magari essere lì, sì, nel popolo di Israele, ma sentendosi una moabita, una vedova, una straniera, una che non appartiene a nessuno. Eppure il popolo l'ha consolata. Nel suo direzionare noi insieme, lo Spirito Santo, punto numero due, protegge la nostra chiamata. Lui guarisce la nostra anima e protegge la nostra chiamata perché definisce dei confini intorno a me e a te che custodiscono ogni buona opera che Dio ha precedentemente preparata per noi affinché noi possiamo praticarla. E sapete, tante volte io ho messo in discussione il fatto che Gesù mi avesse scelto. Tante volte io ho detto a me stesso, non è così, perché guardati. Guardati come sei, guardati cosa pensi, guardati cosa provi. Non è come dicono tutti, non è come dice Dio. E ogni volta che io ho pensato e ho provato queste cose, c'è stato un fratello, una sorella, una persona della comunità dei credenti intorno a me che mi veniva a parlare e mi ringraziava per quello che aveva fatto, per quello che io avevo fatto con loro, per come io ero stato con loro. E lì Dio... Sapete, ricordo una volta, ho accompagnato questo ragazzo a casa e stavo proprio nel mio periodo più di crisi mia, personale, con tanti dubbi. E a un certo punto, mentre sta uscendo dall'auto, inizia a ringraziarmi, a riempirmi di tante parole meravigliose che io volevo mettere le mie mani alle orecchie e non le volevo sentire. Perché quelle parole erano quei confini che proteggevano le mie opere buone che Dio aveva precedentemente preparato per me e io avevo dubbi nel praticarle e quelle parole iniziavano a mettere dei confini e più io le ascoltavo, più dentro di me qualcosa gridava che non voleva ascoltarle, ma sono rimasto fino alla fine. E questo è un esempio e io so che vale anche per te. Quante volte nel dubbio che tu hai è venuto quel fratello, quella sorella che ti ha detto: ehi, è bellissima questa cosa che fai, ehi, sento questo da dirti da parte di Dio, ehi, mi piace tantissimo come stai servendo, grazie per quello che fai per la mia vita. E questo custodisce, mette dei paletti, scaccia via le bugie che il diavolo ci viene a dire, perché ci ricorda la verità che Dio ha preparato per noi. E sapete, questo è accaduto a Ruth. Nel verso 8 e 9 del capitolo 2, Boaz dice a lei: non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Rispetta i confini che io ti sto dando per essere protetta da me, perché io ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino. Voi pensate che era sicuro per una donna, per una ragazza, una donna giovane, vedova, essere in mezzo ai campi dalla mattina alla sera, da sola, a spigolare, in mezzo a uomini per lo più? Pensate che era sicuro per lei essere lì, che nessuno l'avrebbe guardata, che nessuno l'avrebbe toccata, che nessuno le avrebbe fatto violenza? No. Ma Boaz dice ai suoi servi: non la toccate. Anzi, continua al verso 15. Dice: poi si alzò e tornò a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche fra i manelli e non offendetela. Cioè, non la dovevano neanche offendere. Non solo non la dovevano toccare, non la dovevano neanche offendere. Ed è questa la protezione che Dio ci dà nell'essere parte del suo popolo, perché il suo popolo si protegge, perché il suo popolo fa squadra, perché il suo popolo è unito. Punto numero 3, nel suo direzionare noi insieme, lo Spirito Santo allarga il nostro cuore. Lui allarga il nostro cuore. E sapete, il primo settembre di quest'anno compio 24 anni, sui 24 è partito, 24 anni dal mio battesimo. 24 anni gloriosi, dei miei 45 vissuti fino ad oggi, sono i 24 anni più belli, perché sono i 24 anni che io ho speso per te, per noi, per la sua Chiesa. E spendere questi 24 anni per noi mi ha portato a incontrare ognuno di noi. E ho scoperto che ognuno di noi ha una storia. E ognuno di noi porta la sua storia in ogni cosa che dice, in ogni atteggiamento che fa, in ogni scelta che fa, in ogni situazione che affronta. E quella storia e quell'atteggiamento e quelle parole parlano di quello che noi siamo stati a volte. Parlano delle ferite che abbiamo, parlano dei dolori che abbiamo. E questo ha allargato il mio cuore. Perché tante volte lo Spirito Santo ha detto: guarda, guarda oltre quella parola che ti ha offeso. Guarda cosa ha quella persona nel suo cuore, che cosa sta vivendo, che cosa sta affrontando. Questo mi ha portato a perdonare chi non avrei mai potuto perdonare. Questo mi ha portato ad abbracciare chi non avrei mai voluto abbracciare. Questo mi ha portato ad accogliere anche ognuno che è diverso da me, perché nella sua storia c'è qualcosa di prezioso. E c'è qualcosa di unico. Questo mi ha portato ad amare ognuno senza aspettarmi nulla in cambio. Perché questo siamo noi, nella nostra socialità, nelle relazioni che andiamo a intessere l'uno con l'altro. E questa è una sfida che nella misura di grazia che Dio ha dato ad ognuno di noi, noi possiamo abbracciare e noi possiamo affrontare. E non so se vi è mai capitato di vivere per lungo tempo in una comunità di credenti, diciamo, di una cultura diversa, di una nazione diversa. Ora, nel 2008 io sono atterrato in Australia. Era l'epoca dei BlackBerry. Non esistevano gli smartphone. Io, che ero uno squattrinato, avevo il Nokia. Forse la metà delle persone non sanno neanche che cosa sia un Nokia. Ok, quindi arrivo io a Sydney con il Nokia, perso, io già sono un po' imbarazzante di mio, ci sta, sono un po' imbarazzante, ho fatto di questo mio essere imbarazzante una dote, va bene. Quindi arrivo lì, non avevo ancora una casa dove poter vivere, quindi mi arrivo la sera tardi alle 11, mi portano in questo appartamento dove c'erano altri ragazzi canadesi e americani, che mi guardavano come se io fossi uscito, non lo so da dove, o per come parlavo, o per come non parlavo, perché sostanzialmente non parlavo, e mi guardavano un po' così, però sono stato una settimana con loro, erano gli unici che conoscevo. Non avevo idea del mio, io che sono un po', diciamo, visivo, ho bisogno di vedere la pianta per capire dove mi trovo, per fare le coordinate, mo abbiamo visto la cartina, il pastore ce l'ha mostrata, non avevo neanche una cartina. Non esisteva nulla, quindi non avevo neanche idea all'interno della città di Sydney di dove io fossi. Sapevo solo la strada per arrivare dall'appartamento alla chiesa. Quindi un giorno, un giovedì, decido di andare in chiesa perché c'era l'incontro dei giovani e avrebbero, diciamo, avrei partecipato a questa cosa. Il college non era ancora iniziato, erano proprio i primi 3 giorni. E conoscevo solo questi 3 ragazzi con i quali avevo fatto finta di dire qualche parola. Loro mi avevano guardato come per dire: ma che cosa stai dicendo? E io non avevo più parlato dopo di quello, perché ho detto: meglio che mi sto zitto. Arrivo, ci sono delle scale, quindi nell'auditorium per entrare io salgo queste scale e vedo uno di questi ragazzi, che era quello un po' più simpatico, diciamo, quello che mi guardava meno storto, quello che aveva un po' più compassione di me. Lo vedo venire verso di me, ma io come arrivo e lo vedo, ragazzi, io ho avuto un'apparizione celestiale, perché stavo vedendo qualcuno che conoscevo in un posto dove non avevo idea di dove fossi. Come lo vedo, mi viene proprio istintivo, spontaneo, a buttarmi addosso. Cioè io lo abbraccio proprio così, che gli voglio dare i baci per dire: oh, sei qui, grazie. Quello non se ne va indietro. No. Come se io, non lo so, stessi chissà che cosa facendo. E questo è stato l'inizio di tante figure imbarazzanti che io ho fatto, Perché culturalmente voi dovete sapere che non ci si abbraccia e non ci si bacia. E io per i primi 6 mesi e anche di più ho abbracciato e baciato chiunque avessi incontrato sulla mia strada, perché ero abituato ad abbracciare e baciare chiunque quando arrivi in chiesa, almeno in chiesa, come ci salutiamo. E poi quello era un fratello, avevamo parlato, dormivano a casa sua, mi avevano dato le cose da mangiare, cioè non mi devi abbracciare tu a me. Io ero nel giusto, non ero nel torto. Però questo per farvi capire come tante volte l'abbracciare qualcosa di diverso è quello che allarga il nostro cuore. E io ho imparato ad abbracciare senza abbracciare, a rispettare gli altri per come gli altri vogliono essere amati, per come gli altri vogliono essere considerati, per come gli altri vogliono essere accolti. E questo è stato difficile. Sono stato male ogni giorno, che partivo e mi fermavo, che partivo e mi fermavo. Figo se andavo ad abbracciare le ragazze, che questo succedeva, il delirio. Una volta è successo, ma ve lo dirò in un'altra storia. Punto numero 4. Nel suo direzionare noi insieme, lo Spirito Santo trasforma la nostra vita. Trasforma la nostra vita, perché quando la nostra anima riceve guarigione, quando la nostra chiamata è custodita, è protetta e noi riusciamo a servire Gesù come Lui ci chiede, quando Lui allarga il nostro cuore nelle relazioni che dobbiamo andare a creare tra di noi, questo trasforma la nostra vita e ci porta a vivere per qualcosa di più grande, per qualcosa che va oltre noi stessi, per qualcosa che non è per noi individui, ma è per noi comunità. È straordinario anche il nostro vivere proprio in questo mese Dono perché amo, il nostro insieme, vivere la nostra generosità per creare qualcosa di nuovo. Perché quando la nostra vita viene trasformata e noi viviamo per qualcosa di più grande, noi viviamo non solo per noi stessi, ma per le generazioni future che stanno arrivando. Sapete cosa è successo a Ruth? Si ritrova nel Nuovo Testamento. Si ritrova nel Nuovo Testamento. Matteo scrive la genealogia di Gesù e dice: Salmon generò Boaz da Raab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse e Jesse generò Davide il re. Il nome di Ruth è un nome che è arrivato fino alle generazioni future, perché lei ha scelto di fare del popolo di Noemi il suo popolo, perché lei ha scelto del fare il popolo di Dio il suo Dio. E questo ti trasforma, perché rende la nostra vita una vita gloriosa, perché non è per noi stessi. Rende la nostra vita straordinaria, perché guarda a qualcosa di molto più grande che da soli non avremmo potuto guardare, ma insieme possiamo afferrare e possiamo donare noi stessi e possiamo donare quello che abbiamo e possiamo vivere Dono perché amo, sapendo che sarà per le generazioni future, non solo per noi, sapendo che costruirà qualcosa di eterno fino a quando lo sposo verrà e si metterà con noi a fare festa per l'eternità. Noi desideriamo per questo anno correre la nostra corsa verso la direzione di Dio per la nostra vita, così da poter scrivere, raccontare e vivere tutte le opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi. Noi che siamo un popolo di veri adoratori, ci vogliamo impegnare ad ubbidire al suo comandamento e al suo mandato per crescere insieme. Ci piace? Sapete, non c'è modo migliore per concludere questo messaggio se non nell'alzarci in piedi. Stavate aspettando che finivo la frase. No, io mi sono fermato. Nell'alzarci in piedi e nel andare l'uno all'altro, scegliti una persona e prega e ringrazia. Ringrazia Dio. Non scegliere tuo marito o tua moglie o qualcuno della tua famiglia. Vai da qualcuno che nel sangue non ha il tuo stesso sangue, ma che nello spirito appartiene a te. Vai da questa persona e ringrazia Dio per questa persona, perché parte di te e di quello che tu sei. Lo facciamo adesso.